tutto il silenzio del cosmo sale dentro di me, sento il silenzio del cosmo dentro me, sento il silenzio del cosmo.